d'un fiato, con una speranza in tasca. Cercavo un ponte tra uffici e celle, tra neon e maschera. Foucault mi sussurrava, sorvegliare e punire. Ma qui la strada è diversa, eppure fa ancora rumore. Questo saggio porta un nome che pesa come verità. Maslach, luce nel buio di chi si consuma a metà. La correlazione che inseguivo non l'ho trovata qui, ma mi resta una mappa, guarda dove nasce il sì. Non è un difetto dell'anima, non è colpa tua se crolli. È un ingranaggio che stringe e poi ti chiede sorridi. Burnout, non sei un individuo, sei un sistema che si spezza. Sei lavoro senza respiro, sei una vita senza carezza. E se vuoi contare qualcosa non farlo in solitudine. Uniti studia il problema, parla forte col vertice. Ricordalo, ricordalo finché fa male. Non siamo solo il nostro lavoro, non siamo solo Natale. Se causi in fila come chiodi sulla schiena, sovraccarico che morde e non ti lascia la scena. Mancanza di controllo sul tuo gesto quotidiano, gratificazione che non arriva e ti svuota piano. Poi crolla la comunità, ognuno contro ognuno, equità che non esiste, stesso peso, diverso digiuno. Infine i valori in guerra, tu mano, loro profitto. E dentro quella frattura ci cresce il tuo conflitto. Non curare solo il malato, dicono cambia il contesto, perché se la stanza è tossico anche il resto. Burnout, non sei un individuo, sei un sistema che si spezza. Sei lavoro senza respiro, sei una vita senza carezza. E se vuoi contare qualcosa non farlo in solitudine. Uniti studia il problema, parla forte col vertice. Ricordalo, ricordalo finché fa male. Non siamo solo il nostro lavoro, non siamo solo sale. E sembra quasi un manuale, sia un tutorial travestito. Organizzati, fai rete, verticalizza il conflitto. Marx ride nell'ombra, chiama le cose col nome. Plus valore nelle ore che non tornano a casa. Alienazione, quando il controllo non ti appartiene. Soldi e psiche nella morsa, la stessa catena dividi e ti impera. Comunità frantumata, competizione per restare e la dignità barattata. E anche se non lo scrivono, io lo sento chiaro qui. Questo sistema di lavoro così com'è non regge più. Sperare che il management scelga valori umani per bontà, salvo rare eccezioni, è un'utopia che se ne va. E chi comanda non si taglia il premio per compassione, lo fa solo se costretto dagli eventi o dalla pressione. E quando guardi certi mostri capisci senza difesa che c'è un sadismo globale che si veste da impresa. Allora l'unica strada che mi suona vera adesso è dire alla gente sei molto più del tuo prezzo. Ci si unisce anche fuori, si costruisce un'altra vita senza inginocchiarsi al mercato, senza una gabbia infinita. Decentralizzare i mezzi, non turbocorsa né padrone, non collettivi di burocrazia, ma mani in connessione. Burnout, non sei un individuo, sei un qualcosa, non farlo in solitudine. Uniti studia il problema, parla forte col vertice. Ricordalo, ricordalo finché diventa reale. Non siamo solo il nostro lavoro.